bevuto nulla, acqua ho bevuto a pranzo. Anch'io, la verità. La notte, la notte prima ho bevuto anche a me. Venga. E voi con chi eravate? A Natale? Tu Simona e poi... Io Giovanna, Simona c'è già oggi, a pensare la casa di Giovanna. Aspetta, sentiva male, e quindi non essere, sono sceso io, e avevo detto che era il mattino. E il marito di Simona è venuto anche, sì. Ma il marito di Giovanna, non di Simona, il marito di Simona sono io. Ehi, volevo dire di Giovanna, c'era. Sì, c'era. Ehi Antonio, sono tornato dalla macchina perché non trovo il telefonino. Un telefonino piccolo che usavo, secondario, non lo trovo. Ho guardato in macchina, l'ho perso al bar, mi si è sfilato al bar. Il bar è qua vicino, oppure in casa, chissà dove, magari dietro il letto o sul tavolo, infatti lo sto cercando, Antonè. Finché non l'ho trovato non smetto di cercarlo. Sì, fai bene, fai bene. Dammi quanto lo sto pompando con gli ali di coso vicino, come sto scendo? Dovresti essere 9.25. Già va bene, tutta la sera accesa, non è scoppiato quindi. È a posto, sta segnando da la scala da 5 a 12, sta segnando 9, quindi 90 watt, perché tu con 4 watt 5 arrivi tipo 9.15, no? E quindi 9.25 è giusto, no? 10 dB in più per 90 watt circa, è giusto, dai. Sì, monta la L509, quindi è giusto. Anche l'altro viale che ho io, se senti la cosa. Più di quello non va. Sono tipo le valvole, anche condensatori e monti. Non sono i condensatori originali, quindi, capito, tendono a non darti la qualcosa in meno, però pompano un bel, tengono un po' parecchio questi condensatori, sono in corso, in alluminio, e quando spaccare ce ne vuole, altri 50 anni ci dura, ma quelli fatti in cartone, uia, non sai come l'ho acceso, che stavo accordando, non arrivavo, manco a metà, sentivo il suono strano, aiuto, molla tutto il turno che sta a stagliare il condensatore, e tantino, no, ma stavano in distanza, ti sto dicendo il condensatore, come l'ho staccato, stava già diventando nero sotto, uno, l'altro già è buono, ma uno era proprio, stava già cominciando a andare, come se fosse visto quando c'era solato la falsa che comincia a diventare rosso, il lettino, perché non fa contatto. Lei, ma l'hai già cambiato? Sì, l'ho cambiato tutti e due, ma l'ho cambiato assieme, l'ho cambiato, se ne cambi solo uno ti si spacca l'altro, quindi, l'ho cambiato tutti e due, a posto. Fatele sotto. Ehi, e con quanti watt lo stai pilotando? Che dici? Sempre troppi, ricordati, sempre troppi. Se l'ingresso è 10, non so quanto sia l'ingresso di quel lineare. Dalla 5 watt se vai di lusso, la radio è anche più chiara, capito? Magari anziché 90 te ne dà 70, ma te li dà puliti, ricordati. Tranquillo, c'è l'ingresso 4.10, sono a 10 come ingresso. Vabbè, Antonio, adesso poi già entro quando entra più gente, vado a cercare questo cellularino, 5-10 minuti, poi se non ne trovo pazienza, chiederò al bar, anche perché era scarico, mio Antonio, io ho provato a chiamarlo, ma era scarico, era spento e quindi non so più dove è andato, capito? Beh, non mi mancheranno i cellulari, tra quello del tablet che sto usando dello smartphone, l'altro smartphone, più il cellulare normale, insomma, non mi mancheranno i numeri di telefono, dai. Vabbè, quello sì. No, io non ho solo un nuovo telefono, infatti c'è l'altro di riserva, con l'altro fine, 2 mm di altezza, 2-3 mm. Avevo pagato lo 0 euro. Bene, bene, bene. Sì, pensa che non abbiamo toccato alcol. Gli spumanti, quelli li apriamo il 31 notte, dai. Un spumantino, tanto per dire. Guarda, ieri mi sono bevuto solo proprio un sorcino di, per digerire, un sorcino di amaro. Un sorcino, un singolo sorso di amaro, tanto per digerire tra ravioli e carne, capito? Che mi avevano un po' riempito lo stomaco. Infatti ho digerito benissimo, capito? Se no a pranzo acqua, anche mamma ha bevuto acqua, incredibile, incredibile. Ehi, perché non, vabbè, non è abituata, vino non è bello, neanche leggero, roba leggera, niente. Beh sì, per esempio col pesce il giorno prima di Natale, col pesce un po' di vino bianco ci sta bene. Io però non ho bevuto vino, solo acqua. Te l'ho detto, io sono... detto. Preferisco l'acqua. Cioè, l'unica cosa che dissetta è l'acqua, non è il vino che dissetta, non è la birra, l'acqua dissetta, capito? Se bevi cose alcoliche, va, cose tipo Coca-Cola, che zuccherata ti fa venire ancora più sette. Mi ha fatto qualcosa, se la guardi bene, ma sinceramente mi ha fregato le maiale, come diventa dopo 5 minuti. Eia. Oggi spadiglio. Ieri notte mi sono addormentato, no? Ho detto, beh, un minutino e poi spengo la luce e spengo il calorifero elettrico. Sto stesso sul cuscino, boh, addormentato. È voluta mamma alle 5 di mattina a spegnermi la luce grande e spegnermi il calorifero. Proprio fulminato, con appoggiato la testa sul cuscino, fulminato. Dormito subito all'istante. A te le immagini. Certe volte invece non riesco a dormire. E poi sono rimasto a letto fino a tardi, mi sono svegliato un po' tardi, sono rimasto a letto da sveglio fino a tardi, mi sono alzato alle 4:30. Letto. Anche se ero sveglio, no, stavo guardando i messaggi di WhatsApp, stavo guardando baracchini, no, poi mi sono alzato, mi sono vestito. Sono andato alla macchina a cercare il cellulare e poi fra un po' mangeremo. Tocca ancora ravioli avanzati, più la carne avanzata. Abbiamo fatto, sai che cosa? Che fare il solito agnello. Abbiamo fatto uno spezzatino di maiale e agnello, in modo da dare il sapore dell'agnello al maiale. Con le olive verdi, quelle da confettura, no? Quelle che hanno i tagliti ai lati. È veramente buono, è veramente buono. È buono, sì. Io invece ho fegato, cuore del maiale, da fare con le olive, vino bianco in agrodolce, quello è buono. E fa anche bene. Guarda, i pezzetti di agnello si scioglievano in bocca, era una cosa incredibile, era proprio burro. Sai cosa ho fatto io? Ho sminuzzato tutto, i bocconcini di maiale e di agnello ho sminuzzati finemente al coltello in modo che si bagnassero bene col sugo, no? In modo che non siano stoppati dentro. E li ho mangiati così, anche per la masticazione mi aiuta molto a sminuzzarli, capito? Però era veramente buono. Gliel'ho chiesto io a mamma di farlo così, a spezzatino. Lo spezzatino è sempre buono, dai. Tu quando è morbido meglio ancora. Vabbè, quello già è vero. Così vuole, vuole fatto il pranzo e la cena. Io gli ho mangiato bene, la verità. Alle 3 del mattino sono andato a casa, figurati. Ho mangiato di tutto, finocchi, agnello, di tutto mi sono in vela. Pane, pandoro. Mi sono bello riempito, mi sono No, allora a pranzo abbiamo mangiato quella roba lì. Però a cena minestra in brodo, lo sai. Siamo abituati ormai così, minestra in brodo, è leggera, va giù, che va giù in un attimo, è bella umida, insomma. E così faremo stanotte. Tanto mangiamo quelle cose lì, poi di notte minestra in brodo. Panettone, pandoro diciamo che l'ho mangiato a pezzi anche prima di Natale, capito? a un certo punto mi sono preso una fetta di Pandoro, l'ho tagliata in due col coltello e ci ho messo la Nutella dentro. La fine del mondo era. La Nutella ora mangio io. Di cosa? Di Nutella? E allora? Ah, a te non piace, a me piace. Pandoro me lo sono fatto, un filo mi ne ho messo di Nutella, tanto dare il sapore. È veramente buono. Il Pandoro è buono anche di per sé, di suo, no, senza niente. L'importante è che ci sia zucchero sopra, perché appena metti lo zucchero in bustina che ti danno loro, poi se lo assorbe, no? Invece basta comprare lo zucchero a velo già pronto, in barattolo lo vendono, lo aggiungi e rimane sempre bello bianco con lo zucchero a velo. Ah, io ce l'ho giù, l'ho messo ultimo, l'ho aperto stasera il Pandoro, ci ho messo il zucchero a velo, ho mangiato la fetta poco fa, poi io e il cane, pronto Giuseppe, mentre abbiamo galoppiato le noccioline da me e il cane. Le noccioline le ha comprate mamma, le arachidi, no, le noccioline americane. Per mangiare se invece dello zucchero a velo, una busta di zucchero a velo, ti danno una busta di cocaina e ci metti la cocaina sopra al Pandoro. Che dice di male secco? Ma comunque sono sempre sonnolento oggi, non ho voglia di fare nulla, eccetera. Voglio di sdraiarmi, è bello. E che qua è imbandito. Purtroppo il divano è pieno di roba di Natale, di festoni, dell'albero, roba avanzata, e non mi posso sdraiare, se no mi sarei sdraiato anche sul divano. Porco, eh? Beh, già lo credo. Oggi sei sdraiato, sì. Vidi, vidi, vidi. Che bel bip lungo. Vabbè. C'è un bel silenzio qua, c'è il silenzio di tombami. Perché qua, per esempio, anche quando sparano a Capodanno, no? Lontano, senti lontananza e sparano. Qui là è una via di morti, è una via di morti. Non senti volare una mosca, proprio una tomba è. Qua sparo solo io quando sparo. Ma quest'anno non so nemmeno se sparo. Tanto c'è sempre questo divieto. Vabbè, del divieto me ne frego, ma non c'è il tanto, capito? Non ne vale manco la pena. L'anno scorso avevo sparato qua, quest'anno nulla, niente, non sento neanche un cane sparare quest'anno. L'unica cosa che ho visto, guarda, è lì dove andiamo noi a bere, che lui corre. A mezzogiorno e mezzo la sono arrivato io, dopo ci ho uscito lo spin. E intanto ho detto, c'è una birra chiara? No, oggi ci abbiamo solo spin, mi ha detto. Perché oggi è una giornata particolare. Ma ha detto, e c'era un cinghiale sdraiato proprio. Proprio un porco, un maiale sdraiato, l'ho fatto tutto a pezzi, stavano facendo, cucinato. Ha detto, fa una cosa, gli ho detto, guarda, mi sono comprato, ho detto, 18 attimi mi bevo quelle, la faccia tua, gli ho detto. Allaggiati con le spine. Cosa ti volevo dire? Mi sfugge. Vabbè, ecco che non si spara in teoria a Natale, si spara a Capodanno. Qua qualcuno in lontananza ha sparato fuochi artificiali perché sentivano i botti uno dopo l'altro. Natale non si, di solito si spara a Capodanno, ma qua non senti una mosca, lo sai, nella via, sono una via di cadaveri, non c'è mai gente viva qua. Solo in lontananza si sparare. Per carità, guarda. Per tutto mi avete fare la chiave, cazzo, qualche notte. Prossimo anno saliamo sopra e compriamo di quei affari che fanno il fungo su. Saliamo quelli. Tanto non sanno in che giorno sono. No, ma non c'è bisogno di fare la copia qua della chiave. Noi abbiamo un terrazzo nella via più giù, dove ci avevamo le vecchie case, abbiamo il terrazzo di proprietà, quindi le chiavi ce le ho già. So che il Capodanno c'è il rischio che ti becchi qualche pallotto la pagate, mi lo sai. Bastava per quelli scudi della polizia, si mettiamo il casco, vogliamo dire il casco. E giù portati proiettili anche. Si mettiamo i cassi da motto che poi non servono a niente perché la pallottola di buca quelli, capito? È tutto plastica polistirolo, non resistono a niente. Bene, bene. Gaba, non si sente nessuno, sono 27, sono tutti PMR, stavo ascoltando poco fa, 10 minuti, è arrivato a 60 Antonello, non stiamo a prendersi quel portatile di Giuseppe per la parlato Sassene, invece non si sta per niente, non si è chiamato un paio di volte su WhatsApp, non risponde, siamo dritti. Comunque già c'è il canale 7, ho provato il test, già funziona. Pensa che c'è la Bacchiglio che arrivava a basso ma si può attaccare bene, anche se basso. E lui non sentiva me con 35 watt, cioè io avevo 35 watt e lui non mi sentiva mezzo al QRM. Allora il problema non credo che sia il mio, non credo proprio. Ratta Pignara, io ti sentivo bene, buonasera. Ciao Gianni, parlato. Casà. Così da, si tira avanti Marco. Era l'ascolto, io ti sentivo Marco, e anche bene. Ehi, e Bacchiglio arriva in Santiago, Santiago Zero arriva, no, però lo sento, lo capisco bene. E lui non mi sente con 35 watt, allora il problema non si sa di chi sia, se è lo mio, ma non credo. Ma sei il suo il problema, boh. Cappa già, e beh a Marco, che regalo ha preso di Natale Marco? L'ha regalato il computer. Ma portatile o fisso? No, fisso perché il portatile se lo sta portando Manuela Furi per studiare. E a lui abbiamo regalato, tutti e due le abbiamo regalato quello fisso, capito? Abbiamo fatto, diciamo, una colletta. Papà, già devo fare da papà, ogni tanto. Un bel computer, dai. Una cattiva abbiamo regalato. Ciao Claudio. Un saluto. Non si sente. Claudio, sì, ciao, un saluto. Cosa ti volevo dire? Antonè, il tuo nipote che regalo ha preso? E il tuo nipotino che regalo hanno preso? Un bel po' di regali, ho fatto vestire a Alicia, la senegalese, la notte. E come c'è un vestito, gli ho detto, guarda, questo te lo regalo. Gli ho detto, voglio che ti vestiti con la senegalese. Infatti, ho fatto io se l'ha messo. Sì, ho visto la porta, Antonella. Ah, io uno la via Bosi, mamma mia, sì. Ciao, Cla. Io ti ho chiamato, Marco. Ciao Claudio, ti ho chiamato Marco, Ratta Pignara, sì. Io ho sentito da lontano, mi è sembrato di sentire mentre parlavo con Valacchino, Ratta Pignara, ho detto ma magari ho sentito male, e eri tu quindi, sì, ti ho sentito già, ti sento, solo Claudio non ti sente. E con questo vogliamo dire, che colpa mia? No. Solo che è strano, c'è Natalino a fondo scala a me, cioè tu dovresti sentirlo, a me n'ha detto Natalino, ma cosa che non si crede, cioè adesso è forte Natalino, non è che siamo nemmeno a chilometri e chilometri di distanza, no? E vabbè dai, boh, non ne gioco. Guarisci dai, è detto dopo. Oggi non mi sai, gagliati. Natalino arriva quando arriva a te con l'antenna esterna, 40 metri di altezza, fatti il conto, capito? Ti ho detto tutto. Con la 510 arriva quando arriva a te con quel cazzo di antennino che c'hai. Ah, già ti arriva adesso, quando ho alzato l'antenna già ti arriva. Come mi arriva con l'antenna sulla finestra Natalino adesso? Capito? Mi arriva a Santiago 7. Ah beh, allora è risolto, avete risolto, ok. Ok, no, credo che non ti arrivasse ancora, non avevo capito così. No, mi arriva, va benissimo, arrivano tutti. L'unico che non arriva è Coso, è Gianni. perché non ha antenna. Perché arriva, perché siete vicini, siete sì, sicuramente vivrete, anche se ti arriva senza segnale, però lo senti, qua non arriva per niente, nulla. Eia. Eia, eia. Natalino, ma sempre al legno, questi fucili o queste pistole, aiuto a tirare, cazzo. Vai a tirare qua, vai a tirare. Perché non capisco come fai a non sentire il produttore, se il produttore già non sentire a te, con tutta questa bottezza che fai, tu che lo sai, quindi non capisco proprio, perché a vista ottica dovresti riceverlo bene a Sandro, anzi tu lo ricevi, lui non riceve a te. No, però io a vista ottica il baracchino al limite a la zona industriale, ho a vista ottica con l'antenna su, però lui è coperto dai palazzi anche i 27, quindi figurati in DMR. Comunque quelle sono frequenze molto molto delicate, nel senso che basta un niente che non fa, capito? Però ti rispetto che va bene, però se sentissi aperte, lo stare lì a mattare un attimo del dito. Ok, avanti Antonio. Ciao Claudio, augurone comunque. Bene, cucito, quanto lo dammi? Come sto uscendo? Bene, segnale, già lo sai, non perdo neanche perché sei sopra il DB del 60, la radio è buona, a parte tutto il suo casino che gli fai fare ricattare i vecchi, rotolendi, va via Milano, comunque, va bene. Aspetta, che tocca l'avvento la del lineare di tiro, e adesso com'è? Guarda un po'. Perché li ha agganciato? Sono agganciato, sono con il di tiro, quello che messo a posto. E tu mi vedere aggancia e aggancia, Antonio, perché qua ti devo attenuare io, capito? Allora, mo sono agganciato, e mo sono staccato, 1, 2, 3. Minchia, 20 di minchia, 40-60 attenuato, minchia. Sta tirando forte. La geggio, che ho già acceso, bella fresca, ho cambiato il condensatore, ci ho messo il condensatore turbo, cazzo, quelli della lavatrice, mi ha dato sigla Giovanna, alluminio, cazzo. Che ti devi dire cosa, guardate, mi sei turbo, lei. ho capito, vabbè, no, fa, funge. Attenuato col 440, 430 non c'era la luce, non esiste, comunque con 440 si sì, attenuato 40, 60, agganciato, capito, che ho tolto 20 lì e quindi li recuperi quando agganci. Ehi, va bene, allora io sto facendo scaldare più che altro, poi ci avevo sistemato, sono acceso 2 minuti. Guarda, allora, ho dato sicuro che questo funzionava, la verità, mi ha dato il condensatore grossi, usa questi Antonello, provali, non c'è problema, mi ha detto. Va bene, io ho detto che non c'è male, nel caso salto in aria, detto, già vengo qui con l'idea in mano, ho detto che era lo detto Alessandro, gli ho detto, mi sa mangia lui. Hanno fatto di regalo? A me, oh cazzo, mi sono fatto di regalo, anzi, l'unica cosa che ho fatto, guarda, mi sono divertito perché altro, regalo proprio non me l'ho fatto, me l'avevo fatto già la prima, gli altri ricordi, mi sono regalato con due portanti, adesso vediamo un po' in seguito cosa comprarmi, qualcosa di utile. Vabbè, vedremo. No, gli altri. Regali non te ne hanno fatto? No, la verità non ho avuto i regali. Vabbè, a parte il coso, mi ha regalato Giovanna, un bel maglione, pantaloni. Però altri regali di altro genere, niente. No, ma che c'è, però più che altro. E io ti regalo io un bel feitong, sei contento? Guarda, ho 500 euro a parte in banca ancora, tutto per il feitong. Sto aspettando solo che sbloccino e me lo prendo. È un casino, quello non lo commercializzano quasi neanche più, c'è una cosa che usano in Cina. Ti fai un viaggio in Cina con questi soldi, se te ne avanzano dal viaggio ti pigli quell'apparecchio e te ne torni, come ha fatto quel radioamatore. Alla fine non ne vale la pena, dai. Dopo quello bello che hai restituito te lo devi tenere stretto. E ormai è andato, inutile recriminare, dai. Sì, non me la fottino adesso, cosa me ne frega di colori. Ci ho preso il suo nome, scritto qua nella garage, quindi sono a posto. Non mi interessa. Ehi, wow, come HF dicevo, vabbè, che per stare 27 non serve l'HF, io l'ho sempre detto. Basta un baracchino per stare 27, dai, basta che abbia le solite cose, dai, che non sia proprio solo M, ecco. Che poi noi siamo molto in AM, anche. Antone, io vado a cercare questo, benedetto telefonino, se lo trovo, dai. Ci metterò 10 minuti, se non lo trovo dopo lascio perdere, tanto non... Noi idea di dove siamo finiti, magari siccome era andato al bar, no, poggiato il marsupio, magari è caduto lì al bar. Vedrò domani quando apre, dai. Quello che non è caduto, se ce l'hai a casa, non ti preoccupare. Se c'è il marsupio ce l'hai messo dentro. È impossibile che sia caduto lì al bar, non ti preoccupare, al limite è chiamato. Perché sono tutti i miei numeri memorizzati. Quindi sta tranquillo, se te l'hai, ce l'hai a casa, che sì, fai come faccio io, per andare da casa tua, poi appunti le cose dove capitano e ti dimentichi dove deve essere, il discorso è quello lì. Ma ho provato a chiamarlo e spento. Probabilmente si era scaricata la batteria, manco me ne sono accorto. E quindi se non hai il caricabatteria dato per caricarlo, non lo possono mettere in auge, capito? Vabbè, dai, torno dopo. Sentiamo dopo Antone, dai, vado a cercarlo un attimino, vedere se c'è sul tavolo o dietro il letto, ciao. Ciao anche a Claudio, dai. E Claudio si è spostato, ok, vabbè, dopo Marco, non c'è problema, e sto qua l'ascolto. Sono già fatto, un attimino sono al telefono. Sì, fai pure, non c'è problema, tanto sono l'ascolto un attimino. Sì, mi ha fermato, se non sta mangiando, sono un attimo al telefono, devo dire. Marco, sto cercando il cellulare. Marco piccolo. Come lui si resisti, come andate in attacco? È rientrato. Bene, bene, è andato bene. Avanti, Claudio, ben rientrato. Ma le 7:20 sotto. E l'ora? Pensavo fosse le 7:30, minimo. Ho mangiato il suo Filippo, quando il Filippo doveva mangiare Filippo mangiava 6:30, quindi, capito, e se no quello mi dirige. Oh, sono già annoiato già, mamma mia, come sto? Poi, io oggi ho fatto il secondo pranzo, per carità, meglio non pensarci. Perché purtroppo la roba che ha fatto non c'era buona pace, quindi abbiamo scaldato la carne, eccetera, eccetera, abbiamo mangiato quello che c'era ieri. Già, guarda, io mi sono salvato in contropiede, perché ieri eravamo a pranzo con mio cognato qua in via Pietronini, quando era uscito. Ho mangiato, addio, mi sono svegliato alle 4. Ieri notte, appunto, non ho cenato, nulla, ho mangiato la frutta. Oggi al lavoro sono arrivato alle 3. Infatti mia moglie mi ha chiamato e dice cosa ho fatto, siamo soli, lei sta lavorando, non fa nulla, bella installata l'ho fatto fare e dobbiamo iniziare a smaltire, perché poi c'è il 31 ed è un casino, capito? Mamma faceva la minestrina il giorno dopo, di modo che sciacquava. E mamma no, a chi diventa era, tutte facevano così, tutte, ma anche mia suocera il 26, capito, il 26, perché c'era il cenone, era il 24, il 25 si abbuffava forte, e quindi il 26 l'ho fatto. Oggi mi, se venite a pranzo mattina, vabbè, io ho detto, dava dei beni, ma era lui, capito, era il tuo, mia suocera. Sempre che hai 2 per il Firenze. Vai, vai, già vengo, va vengo, vai, metti già, e andavo a mangiare un piatto. Però che sera non mi faccio fare? Una sera, boh, non mangio altro. Io mangio una mozzarella stanotte, insalata, boh, non devo sapere di altro, un arancio magari. Ma non di più, perché sono stato con la 7 tutto il giorno qui. Vabbè, ma non abbinare la mozzarella all'arancia, la mozzarella, mangiati una mela, una pera, una banana, non abbinarsi l'arancia di notte con la mozzarella che è pesante. No, cara, io digerisco tutto, non ho problemi di questo genere, grazie a Dio, per digerire digerisco tutto. Cava, cava, un attimino datemi che se siete a casa, va, e poi continuate, già, dopo magari entro. Ehi, la data pignata dov'è, Antonio? Andata a cercare il cellulare, dove l'ha perso, non so, adesso ho cambiato parecchio, sono dalle colle 4.000. Beh, la modulazione non c'è problema, presi benissimo la grande, tutto ok, molto bene, canale 5, canale 5, no niente, io mi penso, mi si manpensa la loro, poi vado in ferie. Ok, e quindi no, stavo facendo due fesserie qua, poi mi hanno chiamato, ho mangiato il piano, adesso fino alle 7 e mezza rimango qua in radio. Adesso sto fatto con le 4.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Che attacca, che ti ho chiamato? Così sono attaccato, 1, 2, 3, così sono attaccato, 1, 2, 3. Sempre quello, 20, ti porto a 40, attenuato, poi quando attacchi va nuovamente a 60. Senza che cavano ancora mai messo la macchina, eh. Cazzo, mi picco questa innovazione. Con la verza vicinale. Vado fino a 10. Ciao, c'è bene, ho voglia. Siti positivi, ciò, perfetto. Una bagiore. Ascolta, fate l'ingresso quanto mi stai dando? 10 sono, perché sono andato a 10 per sognare questo della Brevi. Cos'è? Un BRL 200? 210. No, il Brevi, BRL 210, è buono, buono. Sì, è un bel amplificatore, per la 39, va bene. Molto meglio del 231. No, no, già funziona bene, già basta che le verrà. Capito, perfetto. Con i cattori sono a posto. Ho dovuto fare un bel lavoretto, perché è un casino. A infilarci quei due condensatori grossi in confronto a quelli che c'erano normali. Invece uno attaccato all'altro, separati naturalmente, prima poi legati con lo scotch per non muoversi, dopodiché ci ho messo un isolante di plastica, poi sopra la colla a caldo per i contatti, per non toccarsi, eccetera, eccetera. Già lavora benissimo, non ha problemi. Va bene, va bene. Si è fatto un bel lavoro, va bene. Questa sera ti chiamo a me, magari quando sono in ferie e ho più tempo, più rilassato, tranquillo di mattina, va? Partivo fino al 30, ma in ferie vado fuori un paio di giorni, va? Fine anno, poi rientro. Cosa stavo dicendo? Tanto andarmi quei due figli, sono talmente piccoli fini, tanto per occhiare mia moglie ti vedo, nel 430. Legnara, e sto telefonino ti ha perso, ma non ti ho comparato, grazie. Sono qua, No, guardate sul tavolo, ma non c'è. No, ma non è lo smartphone, è un telefonino proprio di quelli a tasti che avevo da tanti anni, dove tenevo un numero solo per mamma, no? Un numero telefonico per parlare solo con lei, ma nessuno. Ce l'avevo nel marsupio, però in una parte esterna, dove c'è una fettuccina che chiude con lo stretch. Lei lì si è un po' allentato e si è sfilato e è caduto da qualche parte. L'ultima volta io ero andato a quel bar che c'è vicino a casa, no? E devo chiedere se hanno trovato un cellulare, se no potrebbe essere finito dietro il letto, cioè in qualsiasi punto della casa, no? E vado a trovare, anche perché qua c'è abbastanza baraonda, capito? Sì, non è pariso. Ma io con gli letti li ho messi dietro un cassetto, dopo le batterie, capito? Li ho messi lì perché funzionano tutti perfettamente bene, soprattutto quello della Samsung, prima di comprare questo. Vabbè, ok. Avanti, Antonè, mi prendi? Ah, senti che chiama Babba Zola che mi ha chiamato, ti fa parlare per lui, perché mi risposta adesso, se guarda, fa bene. Ma poi sai cos'è la seccatura di questi, Claudio? Che non sapendo se l'hai preso fuori o in casa devi fare la denuncia di smarrimento. Devi andare in questura, dare il numero di telefono, l'email anche del telefono se ce l'hai. Io non ce l'ho perché non... c'è la scatola, non ce l'ho. Capito? Non sia che usi qualche terrorista, qualche rapinatore e poi cercano me. Anche lì, non dovrebbe succedere, quando siamo così messi male, Puglia, sono ancora a pancia lunga, perfetta, le orecchie sono perfette, adesso non c'è neanche mio fratello, ma io non ci sono, 31, quindi faccio 31, 31, 1, 2, dovrei entrare il 3, dovrei entrare il 3. Anche pochi giorni sono, me. Cercate di sfruttarli più intensamente possibile, così tornate già stanchi al lavoro. Oh, è veramente io una settimana, mia moglie oggi vuole rimanere, capito? Quindi partiamo il 31 tutti assieme e poi ti vuole rimanere, sì, se no ti fa neanche lì la faccia, me ne viene a te, capito? Io sono molto ben preciso, voglio vedere il Bernabéu sia dall'alto che dal basso, è duro, me la fottiato a me. Ma il Bernabéu cos'è, la squadra di calcio? Sì, a Madrid, no, il Bernabéu è lo stadio, è il più bel stadio al mondo, è coperto. Ah, ecco, ho capito, dai. Via, fatti via qualche souvenir della Spagna, portati una bella spagnola come souvenir. No, mi porto già da qua la spagnoletta. Eia. Ebbene, insomma, sto telefono non c'è, sto telefonino, che palle. Pure scarico doveva essere, quindi lo chiamo e non... è spento. Pazienza, pazienza. No, perché certi sai cosa fanno, buttano la scheda e si taggono il telefono. Poi ci vuole caricare batterie sue, se no, nada. Speriamo di trovarlo perché è sempre utile avere un numero di telefono in più che abbia credito, visto? Per esempio adesso sono credito zero in tutti i telefoni, visto? Non ho credito, devo andare a ricaricarlo domani. Cioè ho attivato la funzione internet, però non ho credito per telefonare. E quindi domani provvedo, dai. Benissimo. Chi c'è qua l'ascolto, dai, tanto lo so che siete all'ascolto. C'è la gente, ma siamo tanto un attimo, no, ma c'è la gente in CPMR, c'è Luca che sta ascoltando i radiomatori, mi ha detto che dovrebbe ascoltare i radiomatori, e basta, ma in CPMR non c'è nessuno che ce l'ha acceso. io su qua. Su qua fino alle 7:30, capito? No, Marco, noi siamo tre coppie, capito? Tre coppie di colleghi, e tutte e tre i maschi, siamo allo stesso obiettivo, non davvero a fare un po' di regno, non fatto negli stili di piedi. Il fatto che la guida, noi che siamo qui, c'è il fatto bravo, un viaggio organizzato dall'azienda, quindi ci aspettano lì e ci portano a visitare tutte le cose necessarie, che hanno un po' come a tutti. Certo sarà meglio di quello sassarese, no? Ma dove andate? Proprio a Madrid, no? Sì, ma se non avevo usato la mia azienda, la selezione a Madrid. Potremmo andare a Barcellona, non so se ce la faccio. Non lo so, vediamo quando siamo lì, se riusciamo a stopparci, ma sicuramente rimaniamo lì a Madrid. Capodanni del capitale sono belli perché come a Roma, Coso, insomma, Parigi c'è molto più movimento, rifanno anche fuochi artificiali, chissà cos'altro. Bene, dai, beato te, divertiti anche per conto mio, dai. Sì, ma è blindata, amico, questa storia, questo cazzo di attentati è blindata, insomma, qui è blindata. Non brindate tutte queste grandi città, capito? E tu quando sei in mezzo alla piazza, no? A festeggiare, cominci a urlare, Allah, Allah! A vedere, ti arrivano i soldati addosso, amico. Tutti sono male i soldati spagnoli, mamma mia, ma ti hanno già messo, capisco, lo zainetto, si abbassa. Solo uno zainetto, niente borse, nulla, zainetto con dentro tutto la roba necessaria, e boh, capito? Quindi, vabbè, scrollo, però quello poi lo lasciamo in albergo, non per uscire, è uno zainetto proprio a palla con le cinghie, ce l'ho già, quello che avevo visto quando c'avevo la moto, proprio quello lì. Niente di che, ogni tanto ti controllano sempre, ovunque tu vai, a qualsiasi parte dove ci sono monumenti e cose varie, ti controllano. Tu vieni così, alla linea di culo! Portati profilattici. Come volevo portare la pistola mentre l'avevo zainetto? E poi ti porti una barba finta da musulmano. Aspetta, mia moglie. Siccome io ho il marito di mia nipote, figlia di mia sorella, che è marocchino, no? È di Casablanca. Cosa stavo dicendo? Due anni fa, mi sembra, o tre anni fa, mi ha regalato questa cosa che mettono in testa loro, capite? Sembra un vasino, quasi. Mi sa che mi porto quella, ragazzi, l'ho fatta a mano, Marocchina. Esatto. Ehi, il FS è carino come è fatto, poi artigianale ha anche un certo valore. Ehi. Vabbè, ma il FS è più da turco, capito? Invece se ti porti quelle barbe finte da ISIS, mamma mia, già ti guardano male. Ehi. Vabbè dai, divertiti, io te l'ho detto, portati profilattici, non si sa mai. Occhio aperti, qua, non le figlie, e faccio rimanere in poco, e ha detto qui, ha detto a Marco, che è già andato a vedere lo stadio, e boh, quello resta me la fu più lunga a me. Va bene, tra signori, auguroni a Pepe Frutti e a Coltoni. Ciao, quando, auguri anche a te, noi che ti abbiamo fatto, per telefono, va bene, avanti Marco. Ehi, a proposito di Sandro, ciao Sandro, auguroni, dai. Vogliamo fare la prova rapida PMR, perché anch'io non so se ti è occupato, mannaggia. No, fregatene, dai, è occupato il canale. No, per capire se arriviamo, se ci sentiamo. Sai perché, Claudio? Io ero sul terrazzo nostro delle vecchie case, no, abbiamo il tetto che il terrazzo è nostro. E arrivavo col portatile vero PMR a Sandro, solamente con 2 watt, no, arrivavo a Sandro lì, da terrazzo, no, però arrivavo. Tu arrivavo a fondo scala lì, con l'antenna esterna, a fondo scala al portatile mio. Scusa, c'è una bella zona, non è che è gioco. Va bene. No, per capire se arrivavo io da casa e se arrivava lui, lui arriva sicuramente. Ma c'è il canale occupato là, limite facciamo un break, facciamo una prova. Ma io Sandro parla, chiama là. Non mi sente, no, non mi sente. Sta chiamando Marco. Ah, io veramente ti sto chiamando, sei tu che non senti a me. Io ti sento Sandro, io ti sento come? Santiago 3. Però sei sempre quel. Allora, Sandro, quanti watt stai usando? Sandro? Sono meglio per te, ma io siamo 5 watt. Ui, con queste prove. Io lo sento, praticamente io lo sento. Quanti watt avrà Sandro? Domanda? La minima potenza sarà 5 watt. 5 watt, voglio Marco, lui questo 3. Ah, che ecco, allora, lui con 5 watt, Santiago 3, io con 35 watt, lui non mi sente. Com'è possibile questa storia? Dipende da me o da lui? Marco, te l'ho già detto, è un casino, puoi avere anche 100 watt, se non c'è visibilità o riflessione con lui, no, non c'è niente da fare. Ehi, a me è arrivato il pranzo, dai, a dopo, ciao ciao. E a dopo. E beh, non parlate, io devo ascoltare mentre mangio. Ciao Dio. Su WhatsApp il video di Facebook. E sì, comunque mi sono rotto le palle con la banda. Perché ogni volta qua sento Bacchiglio 27, sento Sandro, sento tutti là. Bacchiglio non mi sente con 35 watt. Sandro non mi sente con 35 watt. È meglio la 27, l'ha detto anche quell'amico di ieri, come si chiama? Dall'ingresso di Porto Torres, Eugenio l'ha detto, è meglio la 27, sentono tutti, dite ragazzi su PMR. Sta arrivando il video, lì. Aspetta uno, il lineare, poi ti mando l'altro. Ciu, che mi sta mandando messaggi, il telefono è nell'altra stanza.